Sì, allora andiamo a presentare per chi fosse all'ascolto. Siamo a Claridagi, è l'ultima sera, l'ultimo evento di questo festival di letteratura organizzato al CSA Next Emerson. Siamo in diretta su Radio Wombat. Presentiamo adesso l'antologia, la prima antologia della pur lunga carriera poetica di Edoardo Olmi. Autore, poeta fiorentino, ha scritto questa antologia per Ensemble che andiamo a presentare adesso. Ci saranno anche altre letture, autrici, autori di affluenti. Se qualcuno volesse poi peraltro aggiungersi con propri versi, il microfono è aperto. Io darei subito la parola, poi su come si svolgerà magari lo dite direttamente voi. E quindi benvenuti, buona poesia. Buonasera a tutte e a tutti, io sono Anna Claudia Franci. All'Emerson mi conoscete più o meno tutti per ragioni di conoscenza, appunto, sul piano emotivo affettivo e di militanza pure comune. E presento, come è stato preannunciato, Poesie Scelte, una silloge che raccoglie tre opere poetiche di Edoardo Olmi e che coprono un arco di 18 anni dal 2003 al 2021. Quindi si configurano come un bilancio, un consuntivo della sua esperienza poetica, della sua attività poetica e anche sicuramente del suo percorso esistenziale, che è caratterizzato, ha come cifra distintiva la riflessione sul linguaggio, d'altra parte come dovrebbe essere l'attività di un poeta. Linguaggio quindi proprio nella radice etimologica di poesia, di poiesis, la capacità, l'attività di costruire mondi attraverso le parole. E così questo è l'intento poetico originario di qualunque poeta, però che Edoardo Olmi fa suo scavando e indagando all'interno del verso, all'interno del linguaggio, cercando di dargli un senso e un nuovo tentativo di significazione. Ma dal momento che è un poeta contemporaneo e vivente, non esaurisce la sua ricerca e la sua attività in quella che facevano appunto gli antichi poeti che parlavano, che agivano le miutoi, le parole autorevoli, ma opera, come tutti i poeti contemporanei novecenteschi, una profonda critica del linguaggio, soprattutto del linguaggio che si struttura come scarto del senso, come critica del senso comune. È evidente già dalla prima raccolta, che è Porcospino in Pegaso, che si presenta proprio come un'opera giovanile, sia nei contenuti che nelle forme che nelle scelte stilistiche e nella visione e nello sguardo. Da un lato è caratterizzata da un intento quasi callimachesco di indagare su tutte le possibilità del linguaggio, ma subendo le influenze e le influenze della poesia contemporanea italiana e non solo. Il Porcospino in Pegaso è un ragazzo filo punk, un ragazzo. Un po' panchettaro da giovane, ora non si direbbe, però. Sì, però è la prima, è l'inizio. Sì, no, giustamente Anna Claudia ripercorre un po' i miei trascorsi poetici, e, insomma, cita un po' anche le influenze poetiche e in questo caso anche musicali che stanno alla base di alcuni testi, in particolare della prima opera, Il Porcospino in Pegaso, che poi chiaramente si sviluppa ulteriormente, si diramano anche queste influenze ulteriormente su un piano poi più strettamente di ricerca poetica, quindi di scrittura poetica, ma anche a livello di ricerca del linguaggio, pur avendo appunto pur avendo come base e mantenendo come radice quella radicalità o quantomeno quel tentativo di radicalità che è anche un po' la critica, per certi versi anche l'assalto frontale al linguaggio e quindi alla realtà o le realtà che il linguaggio costruisce, che sono appunto spesso sono quelle dominanti e costruite in termini di cosiddetto senso comune. E no, dicevo appunto, citavi passati un po' panchettari di un po' di anni fa. Adesso non si direbbe, però ognuno ha avuto, diciamo, le sue radici, ecco, da cui è partito. Sì, ma d'altra parte la poesia è la ricerca e anche la critica delle soggettività o anche l'impossibilità di costruzione di una soggettività a partire proprio da chi la fa, la parola poetica. E infatti questo Porcospino è un ragazzo filopunk, quindi un'epoca lontana, che si affaccia all'età adulta verso i cui canoni, i cui schemi, i cui paradigmi mostra una forte critica e un forte senso di disagio, ma è un disagio che esprime nella parola, nella forma, ma anche nel contenuto attraverso un dialogo aperto con il lettore, perché Edoardo, e questo lo è tuttora, non si interessa alla gestione del tempo altrui se non coinvolge tutti quanti, e soprattutto non gli interessa fornire risposte, questo lo conosco personalmente anche come individuo, piuttosto porre domande e cercare le risposte nel lettore, inizialmente attraverso un assalto tramite la parola e della parola, che si traduce anche in una visione punk dell'esistere, che è finalizzata a cogliere l'essenza non solo della realtà ma anche dell'espressione artistica, però senza mai essere semplificatrice e banale e mera rappresentazione del quotidiano, ma sempre cercando di esplorare tutte le possibilità metaletterarie e metacognitive. Dal momento però che l'assalto prosegue, quindi l'avanguardia letteraria, il dolce stil novo di Edoardo Olmi deve tendere oltre, e la parola poetica, abbiamo sentito prima la presentazione di Alberto Prunetti, è anche un'occasione di impegno sociale e impegno politico con cui forse il poeta si può porre in posizione di conflitto, ma potrebbe anche porsi in perenne dialogo. Resistance, la seconda raccolta che confluisce in Poesie scelte, quindi fa un passo avanti ponendosi come guida alla ribellione del quotidiano che ci fagocita in termini microcosmici e del potere che ci opprime in termini macrocosmici. Però è un atto di ribellione che quindi avviene attraverso uno sguardo che è sempre inquieto, punk, però molto vigile, molto attento, e poiché sembra sempre distaccato e pungente, questo è sempre proprio dell'individuo, ma allo stesso tempo è empatico, è sempre pronto al dialogo e soprattutto a entrare nella realtà che lo circonda. D'altra parte, appunto, la poesia è una terra di confine fra il linguaggio e il senso e il non senso, e l'impegno e il disimpegno, ovviamente fra il senso letterale e il senso figurato. E dunque Resistance si mantiene in questa posizione di dinamismo, però Edoardo fa un'altra operazione, perché nella opposizione al potere, nella resistenza, che è una forma dinamica appunto di costruzione di un'altra realtà, non si limita a porre un altro orizzonte di tipo ideologico o politico, perché sa benissimo che se la parola diventa contropotere non fa altro che costruire un'altra realtà di potere che si sostituisce a quella preesistente. Piuttosto gli interessa parlare del potere, quindi di nuovo recupera la sua dimensione di problematizzazione e di ricerca di domande invece che di asserzione nelle risposte. E la conclusione... Si vede che hai letto la prefazione di Marco Incardona. Si vede che hai letto la prefazione di Marco Incardona e non solo. Sì, ma in realtà realtà quello che ho detto è il frutto delle nostre conversazioni elbane recenti, nelle quali mi sono ritrovata leggendo la prefazione. Per il resto, appunto, sono andata come sempre anch'io per la mia strada. E infine, dunque, l'opera, il poemetto finale, conclusivo, che è Le stagioni scalene, dovrebbe essere il punto in cui la maturazione sia artistica che personale sono giunte, non dico una fine, perché forse una fine fino alla reale fine non c'è mai, però sono arrivate alla loro piena realizzazione. Tant'è vero che io ho detto prima che mi sono venuti in mente due esempi. Uno è la Divina Commedia dantesca, però questo ha tramortito Edoardo. D'altra parte è molto più epicureo che aristotelico, e dunque forse non la sente appieno. Ma da un'altra parte mi è venuto in mente invece Il Canzoniere di Petrarca, che ha come titolo originario Rerum Vulgarium Fragmenta, cioè i frammenti di cose volgari, e in effetti anche qualche volgarità c'è nella raccolta, incredibilmente, ma ovviamente sempre sublimata dalla poesia. Quindi Rerum Vulgarium, che sicuramente ha come intento originario quello di mettere insieme quello che fa questa raccolta, tutte quante le opere che hanno caratterizzato il suo cammino, ma senza in realtà trovare una unità compositiva. Piuttosto, stagioni scalene sono le stagioni, inutile insistere sulla polisemia, non solo temporali, non hanno a che fare soltanto con il tempo atmosferico, il tempo percepito, ma sono stagioni dell'anima, della poesia, della politica, dell'ideologia e della società. Sono caratterizzate da una perenne sincronicità che non solo nei temi e nei tempi, perché mi sembra almeno la raccolta originaria che qui è stata riproposta e rieditata, cominciamo con la primavera, quindi non seguendo un ordine cronologico, ma ovviamente la sincronicità è anche nei temi e nelle forme, perché lo scopo è sempre quello di confondere la struttura del linguaggio e la struttura della psiche, quindi di trovare la tessitura soltanto attraverso la scomposizione e la frammentazione. E non soltanto nella struttura, nell'architrave del verso, ma anche all'interno della parola, perché questa poi ho trovato una figura retorica ricorrente, l'ossimoro. La palinodia è sempre lo sfondo, il contesto, ma è anche il cuore e l'essenza. E d'altra parte l'immedesimazione che fa Edoardo nelle cose, nella realtà, nelle parole, appunto, su cui la realtà si fonda o che fondano la realtà, non è altro che l'ipostasi della ricerca disperata, ostinata. Ma sempre guardata con una lente distaccata, pungente, inquieta e allo stesso tempo leggera del vero, che è l'obiettivo cui non solo il poeta deve perseguire, ma anche il lettore e la lettrice deve raggiungerlo attraverso i dardi forniti dal poeta per poter armare la propria faretra quotidiana. Sì, no, io direi che la prossima raccolta la scrive Anna Claudia Franci, va bene? Cioè, mi sembra che io non saprei cos'altro aggiungere, nel senso che sembrerebbe quasi che potesse una ghostwriter di tutti i testi, no? Dai, a parte gli scherzi, no? Ti ringrazio molto per questa introduzione che ha toccato, insomma, molti aspetti importanti, anzi penso fondamentali di questo viaggio, di questo percorso poetico che è confluito appunto in queste poesie scelte che, come diceva Anna Claudia, raccolgono, sono una selezione di testi dalle mie tre raccolte, il Porco Spino in Pegaso, Re-Existence e Stagioni Scalene. E, sicuramente molti dei temi che hai toccato sono quelli fondamentali della mia poetica, sicuramente la critica radicale del senso, del linguaggio e intesi appunto non in senso strettamente letterario, ma linguaggio che crea i mondi, no? Linguaggio che crea la realtà, come tu stesso dicevi, la parola stessa poesia viene dal greco antico poiesis, dove poesia sta per fare, ma un fare non nel senso produttivo in cui la nostra società capitalista spesso lo intende, ma un fare in senso creativo, no? Poesia, poiesis, ovvero creare o cercare di creare mondi tramite il linguaggio. La realtà è il linguaggio e il linguaggio è la realtà. In un certo senso la realtà è ciò che si dice di essa, diciamo così. È ciò che si dice di essa nella misura in cui, per esempio, noi ci siamo messi qua con un tavolo di fronte a chi ci ascolta, ma potevamo tranquillamente stare in cerchio, no? Potevamo sicuramente trovare vari altri linguaggi con cui esprimere e provare a raccontare una raccolta di poesie, una raccolta antologica di poesie o a leggere delle poesie. Questo è il linguaggio, no? Come noi siamo in questo momento, è una forma di linguaggio con cui ci relazioniamo. E spesso, purtroppo, il linguaggio è potere, nel senso che la poesia è stata forse una delle forme espressive più antiche dell'umanità. Forse gli esseri umani hanno iniziato proprio comunicando con i simboli, con le immagini, con le allegorie, a volte con il suono, con la musica. Quindi le prime parole forse sono state proprio quelle che saremmo portati a chiamare parole, diciamo, a volte primitive o incivili, ma che in realtà erano forse le prime parole poetiche della nostra specie, di noi uomini, di noi esseri umani. Poi sono arrivate, diciamo, delle strutture, delle sovrastrutture sociali, che spesso hanno preso il nome di stati, ad esempio, e non solo, ma a volte hanno preso il nome di vari tipi, diciamo, di gerarchie, di dominazioni, che hanno creato i linguaggi e soprattutto il cosiddetto senso comune per come oggi lo conosciamo e per come per secoli, direi anzi forse per millenni, lo abbiamo conosciuto. Credo che la poesia possa fare molto questo, possa provare ad aprire delle faglie nel linguaggio, nei linguaggi, perché può provare ad aprire delle faglie nella storia e nei percorsi storici, tant'è che credo che ogni vera e propria poesia in ogni epoca storica è sempre in qualche modo una poesia di rottura, è sempre in qualche modo un linguaggio e una scrittura, di rottura. In questo senso, appunto, anche quello che cita Marco nella prefazione, anche la citazione che fa di Khalil Gibran, sicuramente è calzante. E niente, io direi che forse la cosa migliore, appunto, per evitare troppi linguaggi e troppi discorsi, appunto, ma dare la parola alla poesia, penso che la cosa migliore sia, appunto, forse proprio iniziare con delle letture. E mi piacerebbe che, appunto, avevamo pensato questo evento prima come presentazione dell'antologia, della raccolta antologica Poesie Scelte, ma anche come evento della collana editoriale del progetto poetico che con Marco Incardona curo, ovvero Affluenti. Qua vedete alcuni libri di alcuni poeti, di alcune poete di Affluenti, alcune sono anche qua questa sera, quindi leggeranno. Mi piacerebbe, appunto, ci piacerebbe che fosse un momento condiviso sia di letture da Poesie Scelte, sia di letture delle altre autrici, in questo caso in particolare di Affluenti, ma anche se ci sono letture, appunto, da parte di chi è presente, dopo faremo un cosiddetto open mic, come va di moda dire adesso, quindi ci sarà il microfono aperto e chiunque voglia leggere è il benvenuto e la benvenuta. Bene, visto che abbiamo parlato di poesie giovanili e di fasi un po' punk dell'esistenza, per riprendere un po' il filo anche di quello che diceva Anna Claudia, inizio con questa poesia molto molto giovanile, forse è proprio del 2003, quindi quando inizia questo percorso poetico, che si intitola Spendibile. Non sono spendibile dal punto di vista delle idee, degli orari, dal punto di vista degli enti statali in famiglia e di tutte queste altre pistole puntate alla gola. Questo è un testo che si intitola Filosofia del Crepuscolo, è uno dei testi fiorentini, appunto, della mia prima raccolta, Il Porcospino in Pegaso. È stato tradotto qualche anno fa in spagnolo da un poeta messicano che si chiama Alberto Blanco. Filosofia del Crepuscolo. In fuga. Esco di fretta, sospinto da cecità, mi sveglio. Apre e rischiara la mente laggiù. Piazza della Libertà, l'arancio è rossa. Sembra che possa esplodere. Scendendo, penetro il sangue, con lento incedere si leva la cenere, io mi lascio ubriacare. Ebro, soffro e lamento, i labirinti senza fine di ragione sospingono seduto a capochino sotto l'arco di Firenze dei Lorena. Troppi gli dei che si rincorrono, fuori e dentro icone di Italietta sempre prete, scaduta sotto marca del potere. Un testo sempre, diciamo, fiorentino, che viene dalle strade, dalle periferie, a volte anche dal centro storico di Firenze, ma penso forse dal centro storico e dalle strade di molte città italiane, non solo, ma anche europee. Un testo ispirato e dedicato a chi, appunto, per vivere e per rivendicare la propria esistenza, non solo parte da altri continenti, a volte affrontando traversate molto, molto rischiose, a volte molto tragiche, ma a volte, appunto, è costretto a lavorare in strada e per vivere. Fratello ambulante. Un dipinto di Jim Morrison non apre le porte di un albero sacro, né vale la pennellata violenta del sole abbandonato al meriggio sopra la tela madre della savana, all'estro dello spirito dei venti, apogeo di tecnica informale. Neppure l'ultimo conforto di arbusti riarsi chiazzati di sabbia, preludio al martirio del Sahara, con ricevuta di ritorno a quello del Mediterraneo. Perché le corse dei giochi d'infanzia, anelito al suo solo apparire, l'uomo bianco ti restituisce, quest'oggi, in divisa di polizia. Questo, come suggeriva Anna Claudia, è un testo, una poesia tratto non dal Porco Spin in Pegaso, ma dalla seconda raccolta, ovvero Rexistence. Bravo. Bravo, bene, serio. Qualche anno fa ho vissuto per 4 anni a Roma e abitavo praticamente sulla via Prenestina, che, come sapete, insomma, è una delle vie consolari che attraversa alcuni dei quartieri, anche dei quartieri dove c'è stata una bella controcultura, insomma, in questi ultimi anni, da San Lorenzo, ovviamente, che tutti conosciamo, al Pigneto, a Tor Pignattara. In questo viaggio, in questa esperienza romana, ho avuto il piacere e la fortuna di conoscere non soltanto la casa editrice Edizioni Ensemble, ma di far parte anche di alcuni progetti poetici nati in alcuni casi oltreoceano. In particolare, forse alcuni di voi le conosceranno, le cosiddette Revolutionary Poets Brigade, nate da Jack Hirschman e furono Lawrence Ferlinghetti e Jack Hirschman a San Francisco, che poi il progetto poetico, appunto, ispirato alla cosiddetta poesia di strada, alla cosiddetta poesia sociale e politica, che poi si è esteso in varie città degli Stati Uniti e anche in varie città europee. C'era un gruppo romano di cui facevo parte dal 2011 al 2012, in particolare a Roma. In quegli anni, appunto, è nato questo testo, questa poesia. Rexistence è una raccolta, diciamo, che racconta un po' il passaggio da Firenze a Roma, è una raccolta, diciamo, un po' fiorentina, diciamo così, un po' romana, e questo testo, appunto, si intitola Prenestina Rules. Cassonetti in blu, spaparanzati su viali alberati al kiwi e al lampone, come leoni marini di strada. Tumulti di acque bullicanti da fondali di secchio, Vietnam al napalm degli idrocarburi. IP, telefono, casa. Una spina nel fianco recupera la lenza di via Prenestina. Vi sono sovente ippopotami nel bagagliaio, pesci lesi abboccano a ogni mano. Chissà che ci facciamo con tutti quei simpatici monili a pompa, morti molto tempo prima di birre digerite su scala industriale. I ritmi del giorno te li detta la 20ª flessione, indossi passo dopo passo un volto nuovo e preghi nessun film sul tuo stupore. Si rimane così, vestiti di giustificazioni, indecisi se gridare al cortile una rabbia distratta, giusto in tempo per il gol di Cristiano Ronaldo. questo era una prima, un primo giro, diciamo così, un primo giro di letture, però appunto mi piacerebbe che dessimo voce e che fosse un continuum, appunto, questo incontro, questa lettura di testi, di letture, di poesie, da poesie scelte, ma anche dei poeti, in questo caso in particolare delle poete di affluenti che sono presenti e che sono presenti questa sera. E quindi magari pensavo che potremmo alternarci un po'. Qui abbiamo anche una bella illuminazione improvvisata e un bel microfono con asta fatto apposta per il reading a microfono aperto. E quindi niente, mi piacerebbe magari iniziare con questa autrice, che è Chiara Nantini, e insieme a lei poi leggeranno Gabriella Beccarelli e Federica Bembo. Questa è la sua ultima raccolta, si intitola Rinascita, è uscita nel 2022, lo scorso anno se non sbaglio, e quindi ascoltiamo qualche poesia da Rinascita di Chiara Nantini. Grazie. Grazie, giustamente un applauso a Chiara. Ma funziona questo? Sì, ok. Niente, sono Chiara, conosco Edoardo ormai da un bel po' di tempo, dal 2018. Esatto. Dal 2018, ed è stata veramente una fortuna incontrarlo, perché mi ha fatto appunto conoscere il mondo di affluenti, perché a Firenze, insomma, come sapete, è una città abbastanza chiusa anche per quanto riguarda il discorso culturale della scrittura. Sono molto circoli, molto chiusi, a cui è difficile entrare, e forse sinceramente ora che li conosco non ci voglio neanche entrare, detto proprio in poche parole, e mentre invece con loro si lavora molto sullo sperimentale, ci si confronta tanto, ci si incontra, si parla, e non è semplicemente un mettersi in mostra, un far vedere chi è il più bravo, queste cose qua, insomma, è veramente una crescita collettiva. Mi piace questa dimensione appunto del collettivo e della condivisione, che è quella insomma che cerco nella scrittura, perché la scrittura è ricerca. E niente, questa è la mia terza raccolta, si intitola Rinascita, perché insomma, mentre leggeva lui appunto tutti i suoi passati punk eccetera, mi è venuto in mente, no, il prefisso ri, il mio è Rinascita, però potrebbe starci anche, non so se prima o dopo, questo vedetelo voi, ribellione, rivoluzione, quindi vediamolo un po'. E la poesia che vorrei leggere si intitola Per disobbedire bisogna amare. Una voce chiama, nella neve pochi passi, portami fuori, se la porta aprirai, non temerò la tempesta. Portami fuori, un tintinnio di chiavi, come campanelli dorati, mi accompagnerà nel deserto. Scalza, come la verità, sarò regina della neve, carezzevole afflato gelato, come il sussurro del vento. Passi nella neve, sul bianco il manto scarlatto di un regno perduto. Per disobbedire bisogna amare. Non so se posso leggere un'altra. Questa si intitola, beh, avete un po' capito il tema, Aprite le porte. Aprite le porte della casa, un sogno deve entrare. Aprite, senza bussare, entrerà danzando. Andate via, incubi dell'inverno malato. Scuoto la polvere su questo tempo che non conosco. Gennaio traditore, il tuo sorriso gelava nel capodanno ornato di frenetici fuochi. Lasciatemi nella notte il bisogno di andare sotto il cielo stellato, e se domani non busserà il mattino, aprite le porte. Grazie. Grazie, funziona? Sì. Grazie, grazie mille a Chiara Rantini e a queste sue letture dalla sua ultima raccolta Rinascita. E la prossima autrice che mi piacerebbe chiamare qua, invitare qua, è Federica Bembo, eccola qua. Questa è la sua prima, credo, raccolta di poesie, poi ci dirà meglio lei, ma credo sia la prima raccolta. Avevamo pubblicato Federica nella seconda antologia di Affluenti, eccola qua, uscita nel luglio del 2020 con 30 poeti e poete, diciamo, fiorentine, intendendo la fiorentinità appunto non per quella chiusura tipica di cui parlava Chiara, ma per una possibile apertura, non soltanto una possibile apertura, ma le antologie di Affluenti sono nate da un incontro fra quello che era il vivaio fiorentino, diciamo così, autori nati a Firenze e vari poeti e poete che a Firenze erano arrivati tramite molteplici erranze, no? Chi arrivava a Firenze per studio, chi arrivava a Firenze per lavoro, chi, come nel caso ad esempio di Hassanati al-Nassar, poeta esuli iracheno, arrivava a Firenze appunto per migrazione, magari scappando in questo caso da un regime, da una dittatura. Quindi questa idea cosmopolita di poesia e di mondo, e sicuramente questa idea estesa non solo di fiorentinità, ma di appartenenza a una comune identità umana, se così vogliamo dire, se così la possiamo definire, ci ha dato il senso appunto di un contesto sociale multietnico, multilinguistico e multiculturale a cui la poesia a Firenze non solo poteva e doveva dare voce. Quindi da due antologie di poesia, di nuova poesia fiorentina, che è stato appunto un incontro fra autori, autrici, fra lingue e culture da tutta Italia e da vari paesi, da vari continenti del mondo, siamo passati poi nel 2018 ad una collana editoriale dove abbiamo pubblicato autori e autrici appunto non più soltanto a Firenze, ma da varie regioni d'Italia e anche alcuni autori esteri in traduzione. Nella seconda antologia di Affluenti ci sono anche alcune poesie di Federica Bembo, che poi credo siano anche confluite almeno alcune in questa sua prima raccolta, in questa sua raccolta Il mio gioco preferito, e quindi la parola a Federica Bembo. Ciao a tutti, questa raccolta, Il mio gioco preferito, è il mio secondo libro di poesie. Grazie per avermi smontato subito, infatti avevo detto la prima, ma in realtà era solamente la seconda. Grazie Fede, grazie. Prego. Allora, è un libro variegato, diviso diciamo in più sezioni. C'è una sezione che si chiama Pensieri e volevo appunto leggere un po' di tutto, diciamo tre poesie in tutto, una per sezione. Allora, la prima poesia, Dai pensieri, è di un solo verso e fa così. Mostrami com'è bello distendersi su una parola. Poi volevo leggere una poesia d'amore. Allora, questa poesia si intitola Paesaggio d'amore. Il mio amore sale come l'alba, un tuorlo da gustare in silenzio. Mangio te e mangio il sole. Il mio sorriso si invola, gabbiano che si moltiplica. Ascolto gli enigmi del mare e vedo il futuro. Scrivo con gli occhi socchiusi e parlo di te e ancora di te. E poi nell'ultima parte del libro ci sono delle poesie più ironiche e volevo leggere questa poesia che ho intitolato A Dog is Porn, che è una parodia dell'infinito di Leopardi. Sempre caro mi fu questo border collie e questo setter che da ogni parte della sua vita mio marito esclude. Ma sognando e mirando interminati uomini di là da quello e sovrumano amore e profondissimi orgasmi copulando fingo, ove per poco il can non si spaura. E come lo vedo con odio aprire queste gambe, il fallo del border collie a quello del setter vo comparando. E mi sovvien l'eterno, il morto marito mio, e il presente è vivo e i can di lui. Così in questa caninità annegherò l'uomo mio e il naufragargli sarà dolce e senza bare. Grazie. Tia come linguaggio di rottura, no? lo stesso Leopardi, quando a suo tempo scrisse L'Infinito o la sua produzione poetica, per quanto a volte a noi possa sembrare strano per come questi autori e questi poeti a volte ci vengono trasmessi anche scolasticamente, appunto per l'idea, l'immagine che ne abbiamo, anche Leopardi a suo modo è stato un autore di rottura per la sua epoca, che sicuramente ha portato anche delle, delle innovazioni significative, anche molto significative. E quindi dopo Federica Bembo, prima di riprendere poi un po' il filo anche delle letture da Poesie Scelte, mi piacerebbe chiamare qua al microfono la terza autrice di Affluenti che abbiamo questa sera. Alcune non posso esserci, non possono esserci perché sono un po' acciaccate, poi vediamo se facciamo noi qualche lettura anche di Margherita Lo Consolo e di Eleonora Falchi, ma intanto mi piacerebbe chiamare Gabriella Becherelli, che questa non è la sua prima raccolta, ne sono sicuro, quindi in questo caso non verrò smontato alla prima parola e alla prima frase, e perché Gabriella aveva già pubblicato in collana di Affluenti proprio nel 2018, anche Gabriella intanto è nella seconda antologia di Affluenti, ma già nel 2018 aveva pubblicato con la nostra collana un titolo, un libro, una raccolta di poesie che si intitola Apri a caso, il caso non esiste, un viaggio, un excursus poetico in alcune opere di arte visiva moderna e contemporanea. Gabriella è una docente al liceo artistico, se non sbaglio, a Porta Romana, vediamo se mi smonta anche su questo, no? Spero di no. Sì, okay. Perché ora non più, è ma vero. Non sono stata per tanti anni. Oh, però dai, almeno sì. ci sono andato vicino. Comunque lo sono, certo. Quindi Gabriella, da ex insegnante ormai di arte visiva al liceo artistico, appunto ha scritto questa raccolta che è un viaggio in excursus poetico in alcune opere di arte moderna e contemporanea ispirate al tema o ai temi della sincronicità. Il libro si rifà appunto agli scritti, al dialogo fra Jung e Pauli, quindi fra uno dei padri della psicologia moderna e contemporanea e uno dei padri della fisica quantistica, sincronicità che ritorna come tema fondamentale della poesia di Gabriella, sia in Apri a caso, il caso non esiste, ma anche in questa sua ultima raccolta che ha un titolo appunto molto significativo da questo punto di vista, ovvero La poesia non finisce. Gabriella. La poesia non finisce, prendo il microfono perché preferisco. Allora, la poesia è un campo di ricerca incredibile e siccome io mi sono sempre interessata di arte, ho pensato di indagare sulle connessioni che ci sono fra l'immagine e la parola. E quindi quello che mi interessa è proprio questa interazione e andando avanti nella scrittura, ma anche nel lavoro grafico e nella mia ricerca, diciamo, introspettiva personale, ho capito l'importanza dell'ascoltatore e dell'osservatore. In realtà l'osservatore di un'opera d'arte o di un'immagine è colui e colei che, partecipa con l'autore. E così nell'ascolto di una poesia, o di un, si chiama poesia, ma non è altro che scrittura libera. Per me la poesia è libertà assoluta, oltre che ricerca complessa, però libertà assoluta. Anche nella poesia c'è questa continuità, nel senso che l'ascoltatore partecipa alla costruzione di questo scritto, di questo testo. Come partecipa? Rimanendo, come dire, colpito da una parola, da una sensazione che viene fuori a livello di energia, di ritmo, di tutto quello che vogliamo, e così con l'opera d'arte. Quindi la poesia non finisce per dire che nessuna azione creativa ha una fine. Un testo viene letto, viene recitato, però non ha fine, prosegue nella testa o nelle orecchie o nel cuore di chi ha ascoltato. In parole povere volevo dire questo. Quindi la mia ricerca va avanti su questo e anche su riguardo ai collegamenti che ci sono, secondo me, fra arte, filosofia e fisica anche. La fisica può rientrare anche in questo, anche nella scrittura, anche nella... Ecco perché mi sono interessata al pensiero di Jung e di Pauli, perché Jung e Pauli hanno collaborato insieme in questa ricerca proprio su questo tema della sincronicità che poi si ritrova nel linguaggio. E quindi è un campo vastissimo, comunque non vado oltre perché è molto vasto questo discorso. E vi leggo, niente, ho portato una poesia tratta appunto dalla Poesia non finisce, e poi ho trovato un altro testo che ho scritto breve, e che diciamo che io ho letto le lettere che scriveva Vincent van Gogh al fratello Theo. E mi hanno incuriosito moltissimo, perché leggendo queste sue lettere mi sono immersa, appunto, come dire, c'è stata un'interazione fra me e Van Gogh. Allora ho detto, voglio fare una specie di poesia monologo, una breve poesia monologo, io sono Van Gogh e parlo attraverso di lui. La prima, diciamo che è una specie di sfogo, ecco. Sopra la sequoia del pensiero, alta 20.000 metri sopra la terra, vedo piccoli uomini refrattari alla vita, portano dentro da millenni il demone più forte, quello che non conosce, che non trasforma. La parola pace è infetta, è impronunciabile, è bianca e disperata. Dispersa, vuota, sconosciuta, incomprensibile alla storia, addomesticata al potere. E pensare che si vive solo un pugno di poveri anni, 20.000 metri sopra la terra, tutto è così piccolo che l'immenso è il resto a cui possiamo aspirare lontano da qui. Scusate, è un po' dura, però l'ho scritta in un momento in cui mi sembrava tutto abbastanza ridicolo, come mi sembra abbastanza ridicolo, oltre che drammatico, quello che sta succedendo adesso con le varie guerre, i vari femminicidi e tutto il resto. Cioè, si vive un pugno di poveri anni, no? E invece di avere un processo di trasformazione, di cambiamento, ci si ritrova sempre allo stesso punto. Allora c'è dei momenti in cui ti scoraggi, no? Però insomma esiste anche la bellezza, esiste l'arte, esiste la natura. Quindi parliamo di Van Gogh, che anche lui tanto allegro non era, però comunque qui c'è una bella energia. Allora lui scrive al fratello Theo, che poi il fratello Theo è stata una figura determinante per Van Gogh, perché è stato quello che ha creduto in lui e che lo ha praticamente mantenuto, nel senso che lo faceva sopravvivere per poter andare avanti. Poi la fine la sappiamo, no? Theo, sono talmente nauseato da tutti i quadri esotici dipinti in studio. Mandate un po' a sedervi fuori, dipingete sul posto. Vi capiteranno ogni sorta di avventura. Per esempio, sulle 4 tele che riceverai, ho dovuto togliere almeno un centinaio di mosche. Forse anche di più, senza contare la polvere, la sabbia, eccetera. E senza contare inoltre che quando si sono portate delle intelaiature per 2 ore attraverso la brughiera e le siepi, passando un ramo o qualcos'altro, avrà graffiato la tela. E io ho scritto: Theo, la terra è d'identità con la terra. Il vento porta ogni frammento. Insetti, sabbia dentro la tela, antracite, ocra, bianco titanio si invischiano nella materia, traccia dell'esistenza. E blu oltremare, respiro, cieli che si risvegliano la sera al mio ritorno nell'ombra. Grazie. Grazie, grazie. Vai. Voilà, eccoci qua. Grazie a Gabriella Beccarelli, e appunto, come vedete, anche le poetiche, i contributi poetici delle autrici, in questo caso ma anche degli autori di affluenti sono molto variegati, insomma anche molto diversificati fra di loro. Questa è una cosa di cui se io che Marco in Cardona, ma penso e spero un po' tutti i poeti e le poete di affluenti, non finiamo mai di stupirci, cioè il fatto che in questo progetto editoriale poetico fin dalla prima antologia sono confluite e hanno trovato un possibile senso comune, un possibile, non senso comune per come lo intendevamo prima, ma senso comune per come possibile orizzonte di senso insieme a partire anche da differenze e diversità sensibili che nel nostro caso per noi non solo non sono mai delle barriere o dei confini, ma sono sempre una potenziale ricchezza o comunque un potenziale contributo importante che ognuna di noi può portare a questa ricerca e a questo percorso. Non potrebbe essere diversamente trattandosi appunto di un progetto poetico multietnico e multilingue fin dall'inizio, dove si sono incontrati appunto non solo varie erranze poetiche ed esistenziali, ma anche proprio varie lingue diverse. Ad esempio nella seconda antologia di affluenti trovate le poesie di una poetessa che si chiama Barbara Serdakowski, che è di origine polacca, che nella sua vita, per varie dinamiche appunto personali e di lavoro e familiari, ha attraversato 5 paesi e 3 continenti e scrive queste poesie multilingue, in cui traduce simultaneamente alcuni versi in più lingue diverse, dall'italiano al polacco, dallo spagnolo al francese all'inglese, non alla Google Translate ovviamente, ma per far vedere, per mostrare come ogni lingua e ogni cultura sia un mondo, no? Come uno stesso verso poetico tradotto in lingue diverse può esprimere e può dare voce a, può assumere un senso anche molto diverso, no? In alcuni casi può aprire dei mondi anche diversi o molto diversi fra di loro, ma che sono appunto sempre in qualche modo comunicanti, che possono sempre in qualche modo incontrarsi e comunicare tramite la poesia. Andando avanti nelle letture delle autrici di affluenti, due di loro non può esserci stasera perché sono un po' acciaccate, a fine dicembre insomma qualche malanno stagionale c'è, però mi piacerebbe leggere almeno una poesia di Eleonora Falchi, eccola qua. Questa è la sua terza raccolta di poesie, stavolta dovrei averla azzeccata, di cui due con affluenti, e uscita quest'anno, Gli occhiali e lo specchio, una raccolta che racconta anche questi ultimi anni difficili, per certi versi travagliati appunto fra pandemie, guerre e chissà cos'altro ci aspetterà. E quindi inizierei con una lettura dagli occhiali e lo specchio di Eleonora Falchi e poi una lettura dalla seconda antologia di affluenti di Margherita Lo Consolo. Il prezzo della libertà. Per il prezzo della libertà avanzo senza rete, sola bilanciere di un percorso bendato. Vento di vita mi spinge su. Confini non segnati, precipizi nel vuoto e trampolini per infinito. Cerco sicurezze nascoste in fondo a me stessa. Nessun appiglio fuori che sostenga o limiti. Pago il non avere gabbie imparando a bastarmi. E questa poesia di Margherita Lo Consolo, che è nella seconda antologia di affluenti, sarà inserita anche nella prima raccolta di Margherita, che è in uscita il prossimo anno, nel 2024. La raccolta si intitola Nati Nudi, e questa poesia, dalla seconda antologia di affluenti, si intitola Traffico di anime. Fuoco d'artificio sboccia nella notte, pulsa nel buio. Il mare calmo ondeggia, guardo l'orizzonte con la luce negli occhi. La vita scorre nella turgida carne, avanzo fiera, il tempo amico. Al confine della notte, verso le tenere luci dell'alba, un boato squarcia la mia carne, cruda in mille pezzi, morta. Nell'onda rivoltante del limpido barcone, nunzio di false chimere, foriero di sciagura certa. Commercio insidioso fuori dal tempio. Non so se posso sentire, non sento più.

prima del 23, che ti riportava dritto a via di Villamagna. Lì, molte nottate dopo, dove dormivi nel sonno senza stanchezza, scoprimmo la verità, insieme a molte altre. Era a Sant'Antonino, la taverna in un vicolo. Nell'eco dei tavolini di marmo sei rimasto nel vetro, con la carta pallida antica illuminata dal calice rosso, senza aggiungere altro. Ai tuoi occhi, Lupeschi, l'intera Sant'Ambrogio protesta. Non te li tolsero nemmeno gli assistenti sociali, quella notte con noi matti di San Salvi, quando gridò un'ultima volta il rumore del vento sulla Firenze che ti ha amato e la Firenze che ti ha odiato, che ti ha donato il sorriso invernale nell'estate, delta di due fiumi, ti ha gettato nel mare un'altra volta. Hassan, quante parole inutili per quello che ci siamo sempre detti, nei respiri che assomigliano al profilo della luna. Di poesia e di poeti non si parla, ma si è. Quante volte hai chiesto aiuto dentro l'orto del tuo cuore, districandoti fra i roghi della gioia di vivere. Partigiano di un bagliore apolide che ho incontrato negli occhi dei profughi e dei refrattari. Nella quiete discendente delle spade dei Sumeri hanno parlato i martiri di Babilonia e ombre di contadini meridionali, in attesa di un compagno che non vedrò più. Ma in quell'esempio abbiamo urlato tanto, fra le città stanche che hanno fatto dimenticare 100 anime sotto la kefia dei lavoratori a giornata. Finché una palma è scivolata dentro al sonno, quando la sabbia ci è sembrata lenta, perché è stato tempo di riflusso per il nostro amore, duro anche nel sogno, in un mattino ricamato dal volo degli storni. A purificare la terra nella terra c'era pace senza inizio degli amici ritrovati, che ancora continuano a cercare di un bosco per il canto che non ha paese, per un Iraq divenuto allegoria della loro condizione umana. Ed è cresciuto nel silenzio, dove le tenebre difendono i tuoi morti, nel tuo sangue, quell'ultimo battito che ha inciso sopra il primo filo dell'aurora, una poesia sotto la quale possano distendersi gli uomini randagi. Bene, io direi che con questo ricordo di Hassan Atiel Nassar, di cui trovate fra l'altro anche i libri, una raccolta di opere complete al banchino di Ensemble, possiamo, testo da Stagioni Scalene, la mia terza raccolta appunto confluita in Poesie Scelte 2003-2021, possiamo chiudere diciamo questo evento, questa presentazione, e ovviamente i libri per chi volessero sono qua appunto al banchino di Ensemble, ma soprattutto mi piacerebbe ascoltare e sentire se ci sono domande dei presenti e delle presenti, ma anche e soprattutto letture, se qualcuno vuole leggere e vuole intervenire con qualche poesia, con qualche testo poetico. La leggi tu, la leggi Gabriele. Sì. E, ok, prima se nel caso se ci sono domande o interventi volentieri, abbiamo credo ancora un po' di tempo per rispondere, per dialogare un po' fra di noi. E poi magari passiamo a qualche lettura, anche a microfono aperto, potremmo sicuramente leggere anche una poesia di Ghesim Haidari, altro poeta esule, altro poeta errante, grazie al quale fra l'altro abbiamo pubblicato proprio la raccolta di opere complete di Hassan Atiel Nassar. Sì, direi che le poesie parlano sempre più di mille parole, però a questo punto chiederei di leggere questa poesia giovanile di Ghesim Haidari, che però spero abbia tu Gabri, perché non c'è, allora aspetta, forse la recuperiamo niente meno che dal gruppo WhatsApp del laboratorio di poesia. Ah, intanto ovviamente anche se Anna Claudia ha qualche intervento, insomma, giustamente, che ha fatto un'introduzione molto bella, e quindi sarebbe altrettanto bello e interessante se volesse offrirci qualche altro spunto di riflessione in chiusura. Non sto ancora cercando di elaborare, perché è stato molto bello sentire le letture delle poete che continuano, hanno perseguito, proseguito la dimostrazione che appunto la poesia, è vero, è una parola libera, però è una parola formata da ritmo e voce, quindi ha un potere superiore alla parola propriamente detta. E la poesia è appunto, ho sentito Hassan, poeta sei, non fai, e quindi soprattutto è ricerca e indagine, è trasmissione di conoscenza, e è un atto di disobbedienza, ma è anche lo spaesamento che va oltre tutti gli immaginari di senso, quindi è una parola che ammaestra e seduce, e che cerca nuove forme di rapporti di relazione fra le persone irreale, e soprattutto io vedo, è quello, è l'effetto che ha fatto a me, è terapia, la poesia è salvezza, salva anche oltre l'esperienza limitata dell'esistenza, come ci ha dimostrato il poemetto che hai composto su Hassan, che anche ho avuto il privilegio di conoscere, e che riesce a dare anche oltre la morte, appunto, a continuare a risignificare, sì, a esistere, sì. Allora, intanto grazie ad Anna Claudia, io vorrei un applauso anche per Anna Claudia Franci, che ringrazio molto per gli spunti che ci ha offerto questa sera, in questa serata. E va bene, allora chiudiamo con una poesia di Gesim Haidari, che è appunto un poeta esule albanese, che è fuggito, si è venuto all'Albania credo tipo nel 90, poi è stato più di 20 anni in Italia. Cittadino onorario di Frosinone, lui ha vissuto per più di 20 anni a Frosinone in Ciociaria, attualmente sta vivendo, attraversando un ulteriore esilio nelle borghiere britanniche, è considerato insieme ad Hassan Atiyah al-Nassar appunto uno dei poeti transnazionali in italiano più importanti, più significativi di questi ultimi anni, di questi ultimi decenni. Quella che leggiamo in chiusura per salutarsi è una sua poesia giovanile, da una raccolta che si intitola Antologia della pioggia. E che appunto credo riprenda anche vari dei temi, insomma molti dei temi anche sulla poesia, sull'epica poetica in questo caso, che abbiamo affrontato, di cui abbiamo discusso durante questo incontro e durante questa presentazione. Se la primavera giungerà prima da te, Akupas, avvisami, andrò ad aspettarla ai confini che separano le nostre province. E se quel mattino starò ascoltando il Requiem di Mozart, uscirò di casa di buon'ora. Metterò la camicia celeste con le maniche corte e correrò per i campi di brina come un folle, fischiando un antico canto. Vedrò il mio volto nelle acque che scorrono, negli specchi dei laghi, l'ombra del giorno, la partenza delle nuvole nei cieli freddi, il ritorno delle cicogne da terre lontane. Chiuderò i miei occhi castani e udrò le canzoni degli uccelli, le voci della terra insanguinata. E tu, amore mio, non mi riconoscerai, perché sono diventato verde e suono. Ho smesso di essere io. Grazie a tutti e a tutte, e non so se ci sono altri interventi, altre letture, altrimenti i libri degli autori e delle autrici che avete ascoltato questa sera sono qua, e noi speriamo di tornare presto al Festival di Letteratura Sociale a Claridade, al Festival di Letteratura Sociale all'Emerson, e buona serata a tutti e a tutte, e a presto. Grazie per l'invito.